Smart City, la città intelligente. Un benvenuto da Maurizio Melis. Vengono in città per pochi giorni o pochi mesi e poi ripartono. Sono turisti, ma ci sono anche i professionisti e soprattutto gli studenti. Sono i city users, sono parte integrante e vitale di ogni città. Ideare modalità abitative nuove e strutture di accoglienza per questo popolo di passaggio transitorio, ma che spesso porta con sé un valore aggiunto in termini di competenze e ricchezza anche, è l'obiettivo di Instant House Temporary Housing, un concorso di architettura i cui vincitori saranno premiati al MADE Expo, la fiera dell'edilizia che si aprirà domani a Rofiera. Ne parliamo con il professor Remo Dorigati, architetto e docente di progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Buonasera Dorigati. Buonasera. Partiamo con questo popolo dei city users. Che cosa deve offrire di diverso rispetto alla norma, diciamo così, una soluzione residenziale rivolta a questo tipo di utenza, Dorigati? Ma ancora tuttora l'edilizia di natura sociale prevalentemente è ancora legata a vecchi criteri, a vecchi tipi, a vecchi modelli. Il riferimento è ancora quello della famiglia tradizionale, con i figli, la casa costruita attraverso i tipi standard del soggiorno, della camera da letto, eccetera. Il problema è quello di capire se questi modelli devono in qualche modo essere ribaltati, se c'è la possibilità di ripensare a organizzazioni di natura diversa, sia alla scala territoriale che alla scala dei nuclei di natura abitativa. Pensi per esempio che cosa accade alla Fiera di Milano. Io non sto parlando solo di chi viene a visitare la certo. Fiera, sto pensando che la Fiera ogni mese mette in attività migliaia di stuccatori, tecnici, certo. Operatori del settore che si fermano un mese, due mesi o qualche settimana, che attualmente, come dire, vengono rinviati a territori vicini, a Bergamo, a Varese, a Pavia, per i costi, per la mancanza di residenze, eccetera. Pensi per esempio alla questione degli ospedali, a quante famiglie per stare vicino ai loro amati si muovono spesso lontane, da territori lontani, e devono vivere qui a qualche mese, qualche settimana. La maggior parte di queste persone sono isolate, sono, come dire, ospiti muti che non sanno e non possono interagire. Allora, trovare la miscelazione giusta, per esempio negli interventi di edilizia popolare, che devono essere dotati di due caratteri forti. Uno, da una parte, l'individualità e la necessità di privacy di piccoli nuclei abitativi, dall'altra elementi di natura comune, sociale, che possano funzionare da cerniera. E per questa ragione questi luoghi sono luoghi che devono essere più aperti al pubblico, dotati di spazi aperti, di parco, di connessioni, possibilità anche di costruire delle specifiche relazioni. Ecco, possiamo dire che uno, diciamo, degli ingredienti quindi è appunto il fatto che alcuni degli spazi che normalmente sono comunque spazi privati, pensiamo ai luoghi dove si mangia, dove si prepara a mangiare, dove si soggiorna magari a leggere un libro, questi spazi per esempio all'interno di queste strutture deputate ad accogliere chi arriva da fuori possono essere degli spazi comuni o comunque con un livello di condivisione più elevato. Questa è una delle strategie che consente, diciamo, di rispondere a questa domanda di socialità. Questo è uno degli ingredienti? Assolutamente sì. Questo significa che questi alloggi, come dire, hanno un minimo di dotazione, quel tanto per farsi un caffè o una minestra, un minimo di dotazione, e tutto il resto, come dire, deve ricadere su una scala di natura diversa. E sì. Il secondo aspetto è che se queste strutture, queste comunità dispongono anche di servizi che lavorano e si proiettano sulla zona attorno, un piccolo parco, elementi di natura certo. pubblica come piccole spazi per il consumo o per attività di natura culturale, diciamo l'interazione potrebbe essere più certo. ricca, potrebbe certo. aiutare queste persone a non sentirsi sole, isolate all'interno della città, e a mettere in moto un meccanismo virtuoso per cui questi il city user diventi un vero e proprio cittadino della città. Ecco, parliamo del concorso, il concorso organizzato da Politecnico di Milano e Federlegno Arredo. L'obiettivo del bando 2012 era di immaginare delle residenze temporanee per i ricercatori e i visiting professor dell'area Città Studi di Milano all'interno del campus sostenibile, quello presso il Politecnico di Milano. Ci vuole descrivere rapidamente, diciamo, i progetti vincitori, o almeno il primo? Allora, il fascino di questi progetti è quello di cercare una miscelazione interessante fra gli spazi individuali e gli spazi collettivi. Certo. Il primo, una specie di grande percorso centrale, una sorta di strada sopraelevata, vero? Sopraelevata, sì, sì. Che raccoglie tutti gli elementi e gli spazi di natura collettiva a cui poi si agganciano gli spazi di natura individuale. Questo elemento, diciamo, connette all'interno della città due arterie, per cui diventa un elemento anche di passaggio, di attraversamento, e quindi si pone come struttura veramente aperta. Ecco, per chi conosce Città Studi, diciamo, è perpendicolare a Via Celoria, che è una via mitica da quelle parti. Insomma. Cioè, il secondo progetto, in parte anche il terzo. Il primo era di Andrea Di Marino, Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli Aversa, il secondo invece di Giulia Jordan e Magritta Wagner, Università di Würzburg-Schweinfurt, Germania. Sì. E il terzo della Cornell University. Esatto. Questi due progetti hanno l'altro grande pregio di individuare la struttura dello spazio collettivo come un grande vuoto, cioè lo spazio vuoto coperto, una sorta di grande di piazza galleria, chiusa, di galleria, sì, certo. Sì, certo. Una sorta di grande galleria in cui la strategia del vuoto diventa importantissima e fondamentale. Su questa, voglio dire, si relazionano, si affacciano in senso morfologico, in senso anche funzionale, tutti gli elementi che costituiscono questa comunità. Grazie, professor Dorigati. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. È tutto, a domani.